mi fate parlare. E che vuoi dire sulla, sul Colorado? Sono aumentati Ma parli solo te, benissimo. Oh, la trasmissione ma è tua. Chi l'ha detto? Maurizio, ma scusami un attimo, perché? No, ragazzi, perché mi dici? Adesso parliamo seriamente. Siete due pagliacci che non fate parlare. Ma che c'entra? Io non faccio la spalla dei pagliacci. Ma che cosa c'entra? Ma la smetti con queste cose? La propaganda della droga. Siete due delinquenti. Ma che delinquenti? Cosa? Siamo a favore della legalizzazione noi. Siamo a favore della. Ma siete che droga? Ma quali spacciatori? Ma che sei impazzito? Fare il culo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma buonasera, buonasera, miei piccoli schifosini. Allora, Giuseppe, ascoltami bene. Io qualche tempo fa mi sono entrati due zingarelli nel mio appartamento. Io ero fuori in cortile, avevo il cane, si è messo a vaiare, sono entrato e li ho trovati che scappavano dalla finestra. Secondo te io potevo ammazzarli? Non lo so, dipende in quel momento come ti girava la testa. Cioè. Ma come dipende? Tu hai detto che ma quando uno ti entra in casa bisogna sparare, gli hai detto sono tre mesi che dici queste cazzate qua. Allora Lucio, devi stare tranquillo. Tu allora, sei esagitato. Sei esagitato. La pena di morte. Tu privatamente applichi la pena di morte. Sei esagitato. Ma che esagitato? Fai venire i coglioni tutte le sere, sei un fascista? Sei un fascista. Allora dicono che non c'è più la destra e la sinistra. Tu sei il simbolo della destra, fascista. Allora voglio mettere in chiaro per quanto riguarda la prostituzione. In Italia è uno schifo, perché per le piazzole, per le strade è uno schifo. Tra prostitute e froci è uno schifo. In fondo tu sei un po' gay. Ma a te ti piace prenderla a quel posto? Tu sei un po' gay, in fondo. Io sono gay. C'è una parte di noi. Tu manda la tua donna da me. Non è, io stavo dicendo una cosa seria. Ognuno di noi ha una sua parte gay. Un suo. Ma vai a fare in culo, scemo. Ciao Parenzo. Non saluto quel stronzo l'altro perché non vuole essere salutato, quindi mandiamolo a fare in culo. Caro David, eccoci. allora amico mio, se viene fuori, io non voglio darti certezze, non voglio diffondere delle cose che non sono vere, già facciamo tanto casino ogni giorno, non è quello, però se viene fuori che tutta questa vicenda del rogo del camper dove c'erano i rom, sono morti tre fratelli, è opera in realtà di faide interne alle varie famiglie rom della capitale. Cosa cambia? Cambia tutto. Ieri avete gridato al razzismo, avete gridato alla xenofobia, all'odio nei confronti dei rom. Ma non è una cosa nuova, ci sarà sicuramente questo odio, lo sentiamo anche quindi noi ogni giorno qui. Intanto, il dato di fatto è che sono morti tre bambini, ma due se bambini ma se si ammazzano tra di loro per le faide. Se si ammazzano tra di loro per le faide. Comunque morte tre persone, due bambini e un ragazzino. Bisogna sempre vedere perché sono tre fratelli, ma che vuol dire? Intanto le voci dal campo rom di Centocelle. Senti cosa dicono i signori rom. Questa è colpa della politica. Sì, la gente ha visto tutte le cose che sentono, assimilano, uno malato di mente, assimila quello che sente in televisione e procede. Tanto dice la politica, mi salva. Chi se ne frega di loro? La colpa della politica, dicono, hanno già identificato il grande colpevole, magari il signor Salvini o qualcun altro che parla male dei rom, qualcuno magari come me che dice che c'è un'alta percentuale di ladri, qualcuno come me che magari dice semplicemente che è difficile l'integrazione dei rom semplicemente perché non la vogliono e vogliono vivere in un modo come dire, che si scontra con alcune regole fondamentali, caro Parenzo. È evidente che è così. Ma non capisco, e cosa facciamo noi? Filippi, armiamo i pazzi? Armiamo i pazzi? Ma la realtà è che non è stato nemmeno un pazzo, pare che siano stati loro. Questo è il punto. Ieri ci avete fatto due marroni così. Ma ci avete fatto niente. Dai, perché poi il clima è talmente ostile nei confronti di questa comunità che purtroppo anche in passato. Non è ostile, dai. Non è ostile. Ma no, non è ostile. Ma che ostilità. Ma non è ostile. Ma abbiamo chi se ne frega, ieri, dai, la gente da alcuni pensieri, siti, dai. Tipo il giornale Libero, eccetera. Commenti allucinanti, allucinanti su quella. Ma non c'è la caccia ai rom. Dire, non c'è in giro la caccia ai rom. Fatti dire. Ammettiamo che sia una faida interna, sì. Rimangono agli atti quelle frasi vergognose che alcuni italiani hanno scritto su il giornale, che hanno voluto lasciare in questa maledetta segreteria telefonica che tu mandi in onda qui, telefonando all'800 24. Quei commenti sono reali a prescindere da chi è stato. Ma questo cosa alcuni c'entra? Silenzio e chiudi. Alcuni italiani hanno chiamato qui e detto: bene, bello, meno male, tre ladri in meno. Questo abbiamo sentito ieri, questo non si può più sentire, questa è la schifezza, questa è la vergogna che abbiamo registrato ieri. A prescindere da chi è stato, qualcuno ieri si è augurato ed era felice per la morte questo di quelle persone. Nulla, questo è il dato politico, politico. Sì, sì. No, no, c'è un cazzo da ridere, guarda, sono arrabbiato. Ma è dai. Il dato politico. Ma dai. È un dato politico. Che pare che si siano ammazzati tra di loro, no, dai, ma chi, su. No, a prescindere da chi è stato ieri qualcuno ha detto: evviva, tre ladri in meno. Questo è il dato politico. Hai gridato al razzismo, hai gridato ieri, dai. Il dato politico. Ma chi sei? D'Alema, chi sei? No, D'Alema no, non parlerebbe con questa calore. Cento celle. Tu devi andare in cento celle, tu. Cento celle. In cento devo arrestarti a te. Venivano la gente con quelli qua che ci volevano assalire. Razzisti, tipo, diciamo. Con le catene, ci votavano benzina, la polizia è venuta qua, cioè sono stati qua a proteggerci. Allora, c'è un signore che fa lo scrittore, ma in realtà è un magistrato, che si chiama Caringella, credo che sia pugliese, credo anche di averlo incontrato una sera, se non sbaglio, a cena, il signor Caringella, il quale dice, con tutto il rispetto per le autorità politiche, civili e militari, in questo caso con le autorità della scrittura e con le autorità universitarie, il signor Caringella, anzi università, autorità diciamo giuridiche, Caringella, magistrato, che il caso Rom è il più efferato femminicidio. Ora io voglio dire, caro Caringella, il femminicidio già non esiste. In più non c'entra proprio una mazza in questo caso, perché è proprio zero. Ma nemmeno se fosse stato un razzista sì, a bruciare le tre. Il femminicidio non c'entra proprio un cazzo. Siamo di fronte, credo, al femminicidio più efferato e agghiacciante nella storia italiana e sicuramente romana. Siamo alla follia vera e propria. Non c'entra assolutamente nulla il femminicidio. Cioè, a parte che dei tre morti rom, credo che due siano femmine, no? Se non sbaglio, due. Tutte e tre femmine, sì, ma tutte e tre femmine. Ma non c'entra una mazza, cioè, ma non c'entra nulla il femminicidio. Non è che volevano colpire le donne. Se proprio uno deve credere al femminicidio, dai, su. La Russa. Chi è la non Russa? C'è modo di far cambiare i rom. L'onorevole La Russa. Ignazio La Russa. Ex Ignazio La Russa. È tornata, ex ministro della difesa. No. Senti. Non c'è modo di convincere i rom che non sia la regola di far chiedere l'elemosina ai figli, di mandare le donne vestite da vecchie a chiedere l'elemosina, di fare i gradassi maschi. Ma lo sapete com'è il sistema di vita? L'uomo lavora fino a 16 anni, dopodiché non lavora più. Questo è il meccanismo, non dico che lo facciano tutti, ma questo è il meccanismo. Perché poi lavora la ragazza moglie fin quando, anche quando è incinta, e i bambini che nel frattempo nascono. Questo è il meccanismo. Sì, però io... La Russa ci spiega come è fatto il mondo rom, come funziona il mondo rom. Allora, c'è un caso, Parenzo, come sai, in provincia di Cuneo, anzi in un sobborgo di Cuneo, in cui in sostanza cosa accade? Che alcuni abitanti di un quartiere non vogliono l'arrivo dei migranti e hanno appeso un cartello con scritto qui i negri non li vogliamo. Virgo, uno schifo. Il medico di zona, chiamiamolo sì, il medico di zona, ha detto: io a questo punto non vi curo più. Bellissimo, un eroe. Non vi presto. Deve essere, sarebbe bello che il Presidente della Repubblica lo ricevesse al Quirinale. Addirittura. Sì, sì. È un eroe. Ma dai, è ovviamente una provocazione, la sua e la mia, ma di fronte al razzismo non strisciante, ma evidente, sì, che questi. Ha detto che vi curo solamente in caso di pericolo di morte oppure esatto, se posso essere accusato, ottimo, di omissione di soccorso. Disobbedienza civile. Ecco, no, lo ha specificato. Ma ragazzi, ma questi qua non vogliono gli immigrati? Per questo non devono essere curati dal medico? No. La gente che non vuole gli immigrati? Meritano questo. Ma mica è un obbligo. Mica è un obbligo volere gli immigrati. Meritano deve essere un obbligo prendersi. Ma i negri, ma che roba. Ma vabbè, quello ormai, è un altro discorso. Per te ormai ma, quello è normale. Ma quello è un altro discorso che abbiano uno. Ma guarda che non siamo nel Mississippi, sai? Guarda che qui non siamo. Ma hanno appeso un cartello. Non è il Mississippi, amico mio. Degli anni non passati. È, bene, certamente. Andate a googolare a vedere. Naturalmente. Non è il Mississippi. Non è Mississippi dove ci sono gli autobus separati per gli uomini, per i negri e per i bianchi. Non è cioè, il Mississippi. Tu dici il fatto è l'Italia. Che quel cartello ha soltanto una parola: razzismo. E dunque purtroppo il medico fa bene a fare obiezioni di coscienza a non voler curare. Il medico fa benissimo a sollevare una questione politica. Questo è il tema di oggi. Ha sollevato con la sua obiezione di coscienza un tema politico, cioè il razzismo non ci deve essere. E quindi ho capito, ma che vuol dire? Se si presenta uno di quelli, io ho scritto quel cartello, voglio essere curato, lui che fa? Dice di no, è legittimato a dire di no. Intanto ha sollevato il problema e ha fatto vedere che quella cittadina non è soltanto rappresentata da quei quattro bifolchi che hanno messo il cartello. Primo, cioè ha posto una questione, giustamente. Quindi. Cruciani, manda il traffico che devo fare un po'. La Zanzara. Oh ragazzi, ma mi spiace veramente tanto, ma due bambini e una ragazza, ma veramente, cioè ragazzi veramente non riusciamo proprio, non riesco proprio a capacitarmi, ma che cazzo me ne frega di sti rom di merda. Parenzo, vai a fanculo te e i rom. Hai visto? Allora, a proposito di quello che succede a Cuneo, poi torniamo sui rom, naturalmente. Hai sentito c'è questo messaggio? Medico. Sì, questo messaggio è uno tra i tanti messaggi che arriva. Ed è normale. Come si qualifica questa roba? No, ma questa è una porcheria, evidente, no? È una porcheria, ma questo non c'è manco bisogno di dirlo. No, c'è bisogno di dirlo. Quindi questa gente che chiama, telefona, lascia il numero, perché si impegna anche in qualche modo, no? La gente sono persone a cui non gliene frega un cazzo che sono morti tre rom. No, ma quello può anche... Non gliene frega nulla. No, ma la cosa scandalosa... Anzi, pensano tre di meno. Lo so io quello che pensano. Pensano tre di meno. Va bene. Però uno magari se lo tiene per sé, lo dice alla moglie in macchina, all'amico, fa la battuta al bar, cioè, ma questi chiamano. Cioè la cosa pazzesca della cosa arriva l'odio, a che cosa arriva l'odio? È questa. Un conto è fare una battuta vergognosa, schifosa, magari ti scappa, sei in autobus, vedi un rom, dici mamma mia che schifo questi. Purtroppo può capitare, ma l'aggravante purtroppo è che questi capita perché veramente ogni tanto è schifoso vedere un rom che ruba dentro l'autobus. Sei schifoso tu, perché sei sporco, se no di dire? Più da quello che ho visto io e dalle condizioni documentate anche da Libero Quotidiano, come sono le condizioni di casa tua. Cosa c'entra la pulizia, l'igiene, abbiamo cosa documentato la tua igiene, è finita sui giornali, Libero ha pubblicato un dossier, insomma, mi pare che anche quello sia documentato. Ma cosa c'entra? Torniamo a noi. Un conto è una battuta schifosa che uno fa nel privato della propria casa. Sì. Un conto è sì. Questi miserabili che prendono il loro telefono, chiamano il numero che purtroppo è verde, 800 24 00 24, quindi non spendono neanche purtroppo, ma sarebbero disposti a spendere cosa per vomitare il loro razzismo. Questo sì, è ma lo tu schifo. Stai confondendo i piani. Ieri avete gridato al razzismo, gridato fatto, all'intolleranza. No, non è vero, il fatto forse politico è una faida, una faida tra non di me loro. Ne frego delle una faida tra di loro. Il fatto politico è la gente che ha loro. Chiamato. Il fatto politico è la gente ma che ieri il fatto chiamava politico? Sei impazzito, per dire tre ladri in meno. Questo concentriamoci solo su questo. Solo su questo concentriamoci, su quegli stronzi, perché non si possono definire in altro modo, che ieri i razzisti hanno chiamato per risultare per la morte di tre bambini, ok? Allora, concentriamoci su questo. Concentrati su questo, non me ne frega nulla. Non te ne frega nulla. Hai razzismo non ieri, mi dai. Interessa, perché i razzisti si sono fatti vivi ancora prima di sapere chi fossero i criminali. Lauro, il medico. Scusa, vuoi dare la medaglia? Vuoi dare? Non mi interessa questo. Corrado Lauro si chiama, Cuneo, un medico. E Parenzo vorrebbe dargli una medaglia perché ha detto che non vuole curare i razzisti, in sostanza. Poi però l'intervistato fa un po' marcia indietro, perché se l'è fatta un po' sotto il medico, diciamo la verità, per la cazzata che ha detto. Perché, amico mio, anche se uno è razzista, lo devi curare perché fai il medico, chiaro? Lo devi curare perché fai il medico. Te ne devi fottere. Intanto ha posto una questione, ha fatto una battaglia, ha aperto una breccia, ha acceso un dibattito. Il medico può porre una questione, il magistrato Zuccaro invece può porre, il medico sì. Ma certo, è evidente, è una questione di ruoli, no? Ma mi pare il medico ovvio. Deve curare e basta. Il mio primo incipit è ribadire che mai nell'ambito del mio ruolo in questa azienda di incaricato di pubblico servizio, di pubblico ufficiale, di pubblico dipendente, potrei esercitare un triage selettivo sulle persone da curare o meno. Era ovvio l'intento provocatorio del post. Vabbè, dai, se la fa sotto, dai, su, se la fa sotto. Cioè, non posso fare selezione, il tono provocatorio. No, ha detto dai, una cosa vera, giusta. Cioè ha spiegato Filippo Treviso, dai, su, il dai. Senso della sua iniziativa. Filippo Ottimo. Treviso, brava, una brava persona sto medico. Filippo, dimmi. Buonasera. Non gliene frega un cazzo a nessuno, ma Cruciani mi stavi sulle palle che volevo venire quasi a Roma, invece adesso mi sei simpatico. Veramente io sono a Milano, cioè, vabbè, dove cazzo sei? Comunque, siccome ho visto una volta Parenzo a Roma, ho detto magari ci sarai anche tu e avrete mangiato insieme, il caffè insieme, quindi ho detto sì, ogni tanto succede, perché capita, appunto. Allora ho detto ok. Volevo dire a Parenzo. Eccoci qua, prego, buonasera, benvenuto. Buonasera, benvenuto a te. Sì, bravo. Benvenuto cosa? Benvenuto, sono qua. No, nel senso che intanto sei miracolato. Sì, buonasera, grazie per aver chiamato, dica. Ma ci mancherebbe, ho chiamato a quest'ora qua, che cazzo devo ascoltare? Non ho nulla da fare, No, io c'ho da fare, che non sono camionista. Ma poco nulla, niente. Non sono stato fortunato come te, vista la faccia, perché se guardavano la mia faccia forse lavoravo io al posto tuo. Poco nulla, poco nulla. Vabbè, adesso non esageriamo. Non esageriamo. Se tu vedi la mia faccia, poi vedi se esageriamo. E beh, che sei? Alain Delon? Tu sei un bell'uomo, Parenzo, grazie a te lavora lì. Ma cosa c'entra? A parte che la radio non si vede nulla, se è proprio una questione estetica. Vabbè, però in televisione si vede, dai. Ma cosa c'entra l'estetica? Arrivo al dunque. Io quando ho fatto le selezioni per andare lì al Grande Fratello, hanno guardato la faccia, quindi non è che... E l'hanno presa? Vabbè. No. Perché hai fatto... preso. Che cosa hai fatto? Non ho capito. Le selezioni per il Grande Fratello hai fatto? Sì, il primo quando c'era Pietro Taricone nel 2001. E poi sei passato ai camion? Sono passato ai camion. Ma guarda che meglio fa il camionista, amico. Non mio. Sono raccomandato come qualcuno. Adesso detto tu ti devi vergognare, perché stai trattando la tua professione come i camionisti. No, professione così di merda. Lo scarto. Avrebbe detto che sono raccomandato. Mi pare sì, ha detto, questo. Vabbè, mica. Sì, raccomandato. Lo vuoi querelare? Sì, penso che chiederò danni per 25.000 euro. Se no, come fai a lavorare lì? Dai. Sì, l'ha ripetuto, quindi c'è due volte, avvocato. Mi pare che. Non dica un'altra, perché così. Sì, abbiamo la certezza di quello vediamoci che ha detto. Aspetti, una volta a Milano, trucco. Lì dove è Santa Rosa, sì, via Rosa. Sì, vediamoci sì, una volta. Aspetti, poi chiamiamo l'avvocato, perché credo che qui 25.000 euro di richiesta danni, perché è molto grave quello che lei ha detto. Sei raccomandato comunque. È tre volte, quindi al minuto 18:53. Ma tu sei qua perfetto. Per prendere soldi, se ne prendi abbastanza. Sì. No, cosa vuoi no, ancora? No, questo è un attacco. Avvocato, scusami, c'è un signore che ha chiamato che per tre volte ha ripetuto che sono un raccomandato. Mandato. Possiamo aprire un fascicolo un attimo? No. Avvocato? Non ho sentito una mazza. Avvocato. Ha detto l'avvocato, ha chiamato uno dicendo in radio che io sono raccomandato. L'ha ripetuto di fronte a 2 milioni di persone per tre volte. Il famoso Parenzo che ti raccomandò, quello di cui parlano tutti. Sì, possiamo. Ho capito se sia vero o meno. Ma avvocato, che cazzo? Che dice, avvocato? Bisogna aprire subito l'avvocato! Un fascicolo. Bisogna. Apriamo un fascicolo, avvocato. Ma quale fascicolo? Ha ragione Filippo. Sì, Filippo, apriamo hai un fascicolo, sentito, Filippo? No, perché è grave il reato. Manco no? L'avvocato lo difende. Ascolta, Cruciani, posso dire una come? Cosa? Dimmi. Chiudi l'avvocato. Chiudi l'avvocato. Dimmi. Posso dire una cosa? E poi ti spiego. Parte, comunque, ottimo. Abbiamo fatto grazie. Cose... grazie. le dovrebbe fare in privato, non dirle così tanto per fare, perché giustamente gli hanno detto: ma no, ma fai queste cose che chissà cosa succede. Volevo dire, ma la moglie, no, la moglie di Parenzo, che fa? Che fa? Quando gli dicono coglione, testa di cazzo, ma saranno affari suoi, fermo, e non denigrare, non denigrare i camionisti. Dai, zucchero, non si molla un cazzo, siamo tutti con te. Zucchero, la la la. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Lezione di sommelier. A un certo punto l'istruttore dice: ragazzi, se fate questa cosa metto mano alla pistola. Alzo gli occhi, lo guardo, sorrido e arrivo alla conclusione che la zanzara è come la massoneria. Ci nascondiamo nella società e abbiamo dei segni ben precisi per riconoscerci. Siamo al top. Curciani, noi africani neri vogliamo sentire minimum due volte al settimana Loris, Loris, tutti africani, non ti importa noi quanti anni ha, però la voce di Loris ci fa drizzare spada, farcela sentire, farcela sentire, farcela sentire. Napal, Napal, Napal, Napal, Napal. Ma scusa Davide, questo è un fratello nero, questo è un fratello nero ben integrato, mi pare. È un fratello nero che integrato. Vuole Loris. Io allora, organizzerei un grande incontro, un grande incontro dai fratello nero. Sarà viva secondo te ancora? Sì, è vivissima Loris. Tu sai che io Loris alla fine di tutti i discorsi sì, ecco. Con Loris una nottata la passerei. Oh mamma mia, ma qual è il con senso la signora Loris? Il senso dell'orrido hai. Però proprio. Non voglio dire niente, la voglio lasciare al fratello extracomunitario. La voglio chiamala, che sia... fine ha fatto. No, voglio che magari ci dica: no, io con un negro non ci andrei mai, capito? Non ci andrei mai con un nero, con un negro. Tic tic tic tic tic tic. Gianluca da Lucca, vai Gianluca, vai Gianluca, Gianluca. Buonasera, scusa, ma dimmi. Io non riesco più ad ascoltare quel pederasta che c'è accanto. Chi c'è? Pederasta. Buonasera intanto, pederasta. Benvenuto. Con chi parliamo? Quello che scorreggia dalla bocca, scusami. Ma che ha fatto? Che ha detto? Ma adesso, con chi ce l'ha questo? Con te. Con chi ce l'ha? Scusami, buonasera, buonasera. Buonasera, un cazzo, scusami, ma non sento, sei una persona che... Ma che ha fatto adesso? Cosa ha detto? Cosa ha detto? Ma questo qui ce l'ha contro di noi che paghiamo le tasse, che tiriamo avanti un paese. Ma questo qui è da riforma di manicomio, da 118. Ma cosa tira avanti il paese questo qui? Ma se il paese perché, fosse in mano a questo qui sarebbe già in default assoluto. Io ti capisco, cioè io capisco che questo qui fa audience, perché questo qui fa odiare questo tutto qui, quanto. Ma però non è... No, ma spiegami qual è la tua avversione nei confronti del dottore Parenzo, spiegami. Dottore, scusi dottore, un attimo, mi fa capire una cosa, caro, mi faccia capire una cosa. Dunque... Lei ha avuto un'infanzia complicata? Difficile? No, io ho avuto un'infanzia felice. Felice, cioè i suoi genitori giocavano felice. Con lei da bambino? Molto, molto. Io mi domando se suoi giocavano con lei. Come, ma qual è il motivo del contendere? Scusate se vi interrompo. Secondo me, giocare con le palline, tutt'oggi gioca ancora con le palline. Sì, ma qual è il motivo del contendere? Intanto grazie della chiamata e benvenuto. Buonasera, anche per lei buon benvenuto. Della chiamata è questi quattro rom che sono morti. Tre rom. Fino a ieri eravamo si ipotizzava un gesto razzista. Oggi che non si ipotizza più di un gesto razzista, ma si ipotizza di un gesto fatto da tra di loro, ecco. Allora? Questo coglione. Sì, buonasera e benvenuto, grazie, piacere Parenzo. Dai, allora. Sì, piacere sto cazzo, piacere. Sì. Parenzo, ma che bel cognome, non ho mai pensato di cambiarlo lei? Non no, è imbarazzante non... avere un cognome come quello no, che ha detto poco fa? No, perché c'è la gente come te, c'è in culo, capito? Cioè, piacere, mi... Parenzo, ma è veramente una famiglia nobile la sua. Sì, la mia è una famiglia nobile. Si vede dalle giunte. Io voglio capire, allora, che ne pensi di questa vicenda dei tre Roma? Andiamo al quando solito. Quando muoiono dei ragazzini mi dispiace sempre. Ah, mi dispiace a lui dispiace. Oh, mi dispiace sempre, dice l'infame. E quel coglione lì che non gli dispiace quando muoiono degli imprenditori. Ma cosa di... Ma quando mai l'ha sentito, decorticato? Quando mai ha sentito una roba simile? Ma quando mai l'ha sentita una cosa simile? Rompi il cazzo alla gente. Ma quando mai ho detto una cosa simile? Assassino di imprese. Quando mai l'ha detto una roba simile? Io sono un benefattore delle imprese. Ma quale benefattore? Ma se dipendesse da lei sto paese sarebbe in default. Gente come lei distrugge il paese dall'animo cattivo. Ma gente come voi è deleteria. Ma perché ha detto? Ma perché sente come ragione? Sono curioso, voglio sapere cosa ha fatto. Allora, io mi sono limitato a dire, a osservare che nella giornata di ieri, di fronte a tre, diciamo, due bambini e una ragazzina di 20 anni morti in un rogo, a prescindere da quel che è accaduto, mi sono limitato a registrare che ieri più di una persona hanno chiamato a questa radio, hanno scritto sui forum dicendo bene, tre ladri di meno. Ma io ho detto che questo probabilmente è vero. Lei è un coglione, ma senza probabilmente. Non sono un sì, io uno non sono che sostiene un una volte, cosa simile, che dice che tre ragazzini morti sono tre ladri in meno, è un imbecille a casa mia. Ascolta, non ho altra definizione. Piacere, Parenzo. Piacere, aspetta, fermo, fai spiegare. Dimmi Gianluca, dimmi. Scusami Giuseppe. Gianluca tre sembra volte... quello dei soliti idioti intanto. Mi sente Gianluca dei soliti idioti? Dai Gianluca, cazzo, è uguale. Scusa, questo è Gianluca dei soliti idioti. Quello lì, lei è dalla Gianluca bocca. Dei soliti idioti. Ma questo qui scorretta andate dalla a vedere bocca, chi non sa nemmeno cosa stai lei è Maldelli, dai, forza. Sì. Ascolta un attimo, tre volte ah, no, che Gianluca mi sono è l'altro, no, è Biggio l'altro, sì. Biggio. Scusa? È Biggio, vabbè, lasciamo perdere. Scusami un attimo, tre volte che mi sono entrato in casa, tre volte erano zingari. Bene. Dunque tu dici che hanno fatto bene a bruciare quei tre? Ma io non so se li hanno avventati, se li hanno bruciati. Ma io non so, il fatto in sé... Ma no, fatto se sono crepati tre teste di cazzo in meno. Ecco. Io la penso così. Ce l'abbiamo la allora. Ce l'abbiamo il numero di questo, vero? Vabbè, certo, cioè, se vuoi te lo do anche in diretta, non è mica sì, un problema. Sì, me lo dia in diretta. No, però scusami un attimo, Gianluca, tu dici... Diamo il numero di un razzista in diretta, forza, vabbè. Dai. Tu dici tre teste di cazzo in meno. No, fagli dare il numero in diretta se ha coraggio, dai. Dia il numero. Coglione, ma piacere, Parenzo, dammi il numero in diretta, forza, vediamo quante persone ti chiamano. Per darti del razzista. Gianluca, hai detto, sì, abbi coraggio, sì, dai il numero in diretta, razzista, forza, dai il numero. Sì, una cosa hai detto, forse abbi avete coraggio fatto di te stesso, hai detto che hanno fatto bene a bruciare quei tre, dai il numero. Razzista, dai il numero. Dai, piacere Parenzo, dai il numero, forza. Però scusami Gianluca, dai il numero. Hai detto che hanno fatto bene, aspetta, hai detto che hanno fatto bene a bruciare quei tre. Appunto. Ma senti, a me non mi dispiace, detta proprio tra me, dia il numero, dia il numero. Ma uno può esprimere un sentimento? No, può esprimere un sentimento, nemmeno i sentimenti. L'avvocato Trucco mi segnala, questo lo denunciamo, è uno ma stronzo. Ma reato di stronzaggine ha scritto l'avvocato Trucco. Non esiste. Non esiste. Esiste come nel eccolo parolacce, invettive, bene, anche tu. Insomma, credo che il numero sia abbastanza libero. Dia il numero di cellulare. Dia il numero di cellulare. Penso che mandarti a fare in culo sia un complimento che ma io non ho capito. Ma lei quanti cognomi ha? Ma quanti cognomi ha lei? Aspetta, ci sono le istruzioni, Gianluca, per controbattere questa cosa di Parenzo. Ci sono le istruzioni, te le faccio sentire. Aspetta. Allora, mi sono rotto i coglioni del giochino infantile di Parenzo. Piacere, Parenzo. Istruzioni per l'uso da seguire se si vuole offendere Parenzo. Si dice coglione, quello fa piacere, Parenzo, e uno risponde: no, guarda, ti chiamavo per nome. È chiaro? Grazie. Allora, Gianluca? Vabbè. A quel coglione, allora, che si chiama sì. Nome coglione di cognome Parenzo, va bene, gli devi spiegare che gli italiani nome cognome sono quelli Parenzo, che gli fanno lo stipendio, che lo pagano, sono gli zingari che gli fanno lo stipendio, oppure quegli altri proprio scuri. Che anche quelli sono una bella. Però Gianluca, tu dia il suo numero di cellulare, forza. No, Gianluca, ma quello già ce l'abbiamo. Che tiri fuori, no, lui lo deve dare in diretta. Tiri fuori un po' di coraggio, forza. Anziché fare perché? Il coglino, hai detto che davi il numero di cellulare, forza. Dai, tira fuori il numero. Ma perché dai. Cosa lo dovrebbe dare? Razzista, tira fuori il numero di cellulare. Vediamo quanti ti chiamano. Vediamo quanti ti chiamano per dirti bravo e quanti per darti del razzista di merda. Forza, di soddisfazione. Coniglio, dai il numero di telefono per quello che hai detto, forza. Ma forza, senti, quanto, tira fuori il coraggio. No, ma hai detto, però, scusami, hai detto che puoi anche posso anche dare il mio numero. Non è un problema. Tu, mica l'ho detto. Magari, io. Vabbè, ma io lo posso anche dare, ma non dallo. Lo do. Scusami, forza, 3-3. Dai, forza, forza. No, ma infatti è legittimo non darlo. Ma non fare il coniglio, non darlo. Ma l'hai detto tu, hai detto il numero. Ci ha ripensato. Ci ha ripensato perché è un coniglio. E quindi si trincera dietro l'anonimato per dire stupidaggini della vista. No, Gianluca, la Luca non è l'anonimato. No, infatti a Luca lo conoscono tutti. Dicono, dov'è l'idiota? E là si chiama Gianluca. Lo sanno perfettamente dov'è. Ti conoscono, ti conoscono. Parenzo, coglione, Parenzo, Parenzo, coglione, Parenzo, coglione, Parenzo, coglione, Parenzo, sei un coglione che poi Parenzo, dopo ti nascondi dietro un nulla perché sei un Parenzo. Fermo. A Luca, allora, scusa, lui ha espresso, dov'è l'idiota? Ah, no, ha espresso, guarda, allora, via Luca, amici, sì, Luca, Gianluca ha espresso un sentimento di soddisfazione. Bene. Dice, guarda, devo dire la verità, sono morte tre persone, non mi dispiace, così ha detto, non mi dispiace. Si può dire che fa schifo? Io non ho nessun sentimento di soddisfazione, anzi, sono sinceramente per la morte di tre persone. Ma può anche non dispiacerti, chi se ne frega, ho capito, uno non è che è tenuto a dire mi dispiace per queste però tre persone. Però tu dici essere contento. Ma un miserabile che telefona in diretta a lui, scusa, senza ombra di dubbio lei è un miserabile, ma sono contento perché a Lucca la sua voce la conosceranno e questa sera avranno un elemento in più per giudicarle il coglione che è, capito? Fermi tutti. Dai cazzo, esatto. Parenzo. Sono Parenzo. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento La Zanzara. Ma vedrai, Parenzo, che ti becco. Non ti preoccupare, coglione, che ti becco. Perché sono già stato invitato da più persone conosciute in chat a Roma. E quando sono a Roma, non mi faccio sfuggire. La chicca di darti una mano di legnate. E non ti preoccupare, che ti vengo a scovare. Io ti vengo a scovare come ho sempre scovato tutti quelli che ho sempre dato lezioni. Li ho sempre scovati. E scovo anche te, topo, sorcio, coniglio! Le minacce di Napalm Mauro. Minacce aggravate. Beh, ci sono una serie di reati che volendo questo qui ha commesso, no, palesi. Vabbè, dai, mi pare. Voglio dirti una cosa, caro Parenzo, ma sì. Per uscire fuori dal tracciato, la questione Rom, le minacce che ti sono rivolte da parte del signor Mauro, quello che ha detto prima l'ascoltatore sui Rom, di essere contento, quello di Lucca, dici, della morte, quello di Lucca? Dei tre ragazzi Rom. No, ma mi hanno appena segnalato che l'hanno preso e l'hanno riportato nel reparto in cui era. Allora, una cosa che non c'entra assolutamente nulla, però tu hai un modello, ogni tanto citi un economista, no? Ogni tanto, quando sei qui in trasmissione, citi un economista. Quale sarebbe questo economista che citi ogni tanto? Come si chiama? Stiglitz, esatto, bravo. Non hai detto il nome giusto. Sì. Oggi il signor Stiglitz, sì, che adesso non ce ne frega niente di discutere di questa persona, no, che il 99% delle persone che ci stanno ascoltando probabilmente non conosce. Beh, 99%. Barisoli lo conosce molto bene, Stiglitz. Infatti Barisoli non ascolta la Zanzara. E ripeto, il 99% delle persone non conoscono. Il quale oggi a Pisa ha questo detto Stiglitz? Nell'euro le nazioni più ricche si stanno arricchendo sempre di più. Giusto. Quelle più povere non si stanno sviluppando. Giusto. L'Italia esca dall'euro per poter crescere. No, no, Stiglitz. È il tuo modello. Uno dei tuoi punti di riferimento che citi sempre qui alla Zanzara, che citi continuamente, eccetera, eccetera, oggi in Italia a Pisa ha fatto queste affermazioni. Ti sta bene, non ti sta bene? Tu, no, che sei un grande difensore dell'euro, non mi sta bene, che, che ogni volta sei con la bandiera dell'Europa, certo, che hai fatto l'inferno a favore di Macron, sì, ha vinto l'altro Macron, giorno sbandierando anche, sarà un il tuo amore per le banche, per i banchieri, no, per Rothschild, no, no, come per la BCE, no? per la BCE, banca centrale ben governata, ora nelle mani solide, salde, Natale sicure, da Salerno, poi Aurora timoniere, da Milano. Qual Natale, è il dottor Draghi? Pronto? Dimmi. Senti, Allora, senti, ti volevo dire, Parenzo, Natale. Alziamo il livello, forza. Mi Vai. Senti? Sì, ti sento. Sì, ti sì, sento. Alziamo il livello. Allora, allora, tu dici che noi italiani siamo razzisti, però non è vero che siamo razzisti. No, alcuni, alcuni. Quelli allora, che hanno chiamato qua per in meridione, sono sempre venuti le persone straniere, le abbiamo sempre accolte, però è un periodo che il razzismo si sta sviluppando. Sai perché? Perché agli italiani lo Stato toglie, perché mette tasse, ci aggrava di... e invece agli stranieri li aiuta. Adesso un amico mio, ad esempio, che lavora in una fabbrica a fianco alla mia... Un amico tuo, hanno, sì? Che ha fatto? Hanno assunto gli extracomunitari. Sì. Questi qui si prestano pure a fare 12 ore, sempre per la stessa paga. Allora il datore sempre del lavoro... Sempre per la stessa paga, non è che sia... sempre per la stessa paga. In nero, non ho capito. Cioè, non in è che... nero, esatto, esatto. Allora il datore di lavoro pretende anche dagli italiani la stessa cosa. Sì, in nero, questo... sempre in nero. Perché non vai a sempre in nero, e perché non vai paga, a denunziarlo? Scusa, non ho capito. Non, è, non sono io che ci lavoro là, ma vai a denunciare che denunci. Non lavori proprio più se denunci qui in meridione. Quelli si passano la voce uno con gli altri. Ma che lavoro è in nero? Spiegami, che lavoro è? No, ma non è il lavoro mio. È un lavoro in una fabbrica, un'azienda. Ma che vuol dire una fabbrica in nero? Non è che si può lavorare in nero. Sì, ci saranno sicuramente moltissime situazioni. Però denuncia, denunzia, dai, denuncia. Ma non è solo in nero. Qui siamo la Confindustria, gli industriali italiani, pure di Salerno, credo. Non lavorano in nero sempre. Ascolta, lavorano tutti in nero. Però per esempio magari hanno un contratto part time, cose vabbè così. Allora tu dici danno tutto, allora agli... dici vedi, allora vengono questi qua da fuori, si adattano a fare un lavoro, si prestano uno a fare 12 ore per esempio. Beh, viene l'italiano, no, devi fare il datore di lavoro, devi fare anche tu come lui, e così vedi poi si cresca il poralato. Ad esempio qui giù c'è la piana, lavorano le persone, prima erano tutti italiani, donne italiane, adesso tutti loro hanno fatto pure il stesso loro, gli ex comunità tra di loro hanno creato di nuovo il fenomeno del caporalato, che era stato buttato, era stato, diciamo, vabbè, tolto negli anni. Che cosa vuol dire, Natale, che secondo te sono secondo privilegiati gli stranieri? No, non privilegiati. Sono privilegiati, no, innanzitutto sono privilegiati su tanti punti di vista, però così facendo, cioè tu vai in già c'è una crisi economica, già la gente non arriva a fine mese, poi dobbiamo trovarci a lottare per lavorare con gente che poi vuole farsi sfruttare ancora di più. Vabbè, allora, tu Natale, capisci? Io non penso che uno che viene qui vuole farsi sfruttare e vuole che il suo salario sia pagato meno di quello degli italiani. Non è esattamente. Vabbè, Natale, ti saluto. Ciao, ciao, ciao. Allora, ragazzi, dobbiamo essere tutti un po' preoccupati, caro David. Lo sai perché? Perché Salvini non sta tanto bene. Oh mamma. No, ma non sta tanto bene dal punto di vista ingrassato. Ah. È ingrassato. Vabbè, ha ipertensione. Fatti. Ma questo mi spiego, come fai? Ha l'ernia al disco e la lordosi. Mamma mia, ragazzi. I trigliceridi altissimi. E che ne sai te? Amico mio, l'ha detto lui. Non l'ho detto io. Senti, dobbiamo trovare un medico al signor Salvini. Io ne ho uno. Senti. Io ho per i denti Abdallah Kabakeb. Ho tutti i medici, io gli voglio mandare, guarda. Un medico extracomunitario. No, tutti, per tutte le specialità. Allora, per i denti, per odontoiatra, bravissimo, il dottor Abdallah Kabakeb. Ma non così nomi... gli trapana mentre quello. Allora, mentre gli fa col trapano in bocca. Il dentista gli dice: allora, che dicevi dei migranti? Degli islamici? Mi dice al trapano in mano, no? Ma non così, ci vada Kabakebji a farsi bloccato così sulla, ma non sul lettino, ci vada Kabakebji, dai. Poi ne ho uno bravissimo, un medico bravissimo che viene dal Marocco, un internista che potrebbe fargli anche la cosa della prostata, il test della prostata. No, la prostata fargli. Ha detto di non avere problemi alla prostata. Ma questo medico marocchino è bravissimo, sai, per verificare la prostata. Sì, col dito, col dito nel culo. No, dici, io non col ho detto, dito nel culo. Le modalità sono a te note, diciamo. Però, diciamo, però sentiamo quello che ha. Poi ragazzi, se avete delle ricette per il signor Salvini per recuperare dal punto di vista fisico, fatevi avanti, soprattutto medici stranieri, extracomunitari, in particolare arabi o africani. Bravo, bravo. Oggi sono andato a fare le analisi, ho fatto la risonanza magnetica, non ne frega un cazzo a nessuno, però vi rendo partecipi. Ernia, brutta postura, mi aspetta fisioterapia, mezz'ora di camminata al giorno, dieta, trigliceridi a 257, mi ha detto lei mangia male, e dico grazie al cazzo dottore, come dicono Oxford, sono in giro dalla mattina alla sera, mangio se e quando riesco un panino alle 3 del pomeriggio o un piatto di pasta alle 11 di sera, no, disastro! Trigliceridi a 257, pasta alle 11 di sera, panino a pranzo. E quindi, se mi fate rifare il segretario federale, tenetemi a bada come alimentazione e stile di vita, perché qua fra ernie al disco, ernie inguinali, ipertensione 95-140, eccesso di sali, trigliceridi, siamo una sfiga, un conglomerato di sfighe, vabbè. Via il pane, via la pasta, via il formaggio, via il sale, via i dolci. No! Devo dire che se non facessi il segretario della Lega avrei una vita più tranquilla e riposata, potrei mangiarmi il pesciolino, la bistecchina, l'insalatina. Mi ha detto il pane ai 5 cereali. Cos'è il pane ai 5 cereali? Sono arrivato a 44 anni senza sapere cos'era il pane ai 5 cereali e adesso devo andare a comprare il pane ai 5 cereali. Vabbè. Il pane ai 5 cereali è la più grande sola, non cambia assolutamente nulla tra il pane normale e il pane ai 5 cereali. Ma in realtà non si capisce perché non può seguire una dieta normale perché è segretario della Lega. Io però perché cioè, lui dice perché di andare in giro e mangiare la cassuela in tutti i posti dove va. Non ha detto la cassuela, lui dice siccome gira come un pazzo per tutta l'Italia. Mangiasse della frutta, della verdura, come tu mica il pesciolino radical shiba, che si mangi un po' di frutta, verdura, dai su forza, non è mica così drammatico. No, lui sta dicendo siccome è costretto a girare mangia male, arriva alle 11 di sera, c'hai voglia di prendere un piatto di pasta. Insomma, non si cura abbastanza il signor Salvini e bisogna fare intervenire forse il dottor Lemme. Che dici? Signor Lemme? Signor Lemme? Sì, forse sì. Dai. Giordano da Brescia, vai Giordano. Pronto, buonasera. Dimmi, lo dimmi. Curo io Salvini, che sono un medico bresciano. Giordano. Penso gli possa andare bene. Sì, ho capito, però hai visto qual è la situazione di Salvini? 257. Sta benissimo, metà della popolazione italiana così. Comunque lui deve mangiare solo stinchi e cotechini, così dopo ha le stesse cose ma è più felice. Cioè, ma stinchi e cotechini però è una maledizione da quel punto di vista. Sono buoni, dai. I trigliceridi da 257 com'è? Cioè è grave? I trigliceridi sono alti. Alti, cioè che significa poi il colesterolo? Che cos'è? I trigliceridi sono i trigliceridi, il colesterolo è il colesterolo. Ecco, i trigliceridi sono i grassi che vengono assunti mediante il cibo. Se uno non mangia il cotechino, se non mangia il salame, i trigliceridi scendono. Esatto. Il problema è il colesterolo, che quello è sempre alto. Però, i formaggi, magari troppi formaggi. Ma poi dopo, se uno è salutista come Parenzo, dopo alla fine vive. Ma non è salutista per niente. Tre giorni di più e pioverà. Ecco. Sai, io mangio veramente di tutto, ma con attenzione. E poi mi vado molto a piedi, mi muovo e quindi il mio fisico è perfetto, slanciato. Vabbè, allora che voleva dirci Giordano? Senza pancetta. Fisico volevo perfetto. Volevo dire, io ho telefonato per l'affermazione che se vera del medico che non vuole più curare. No, è vero, è benissimo, come no? È benissimo. Allora, bisogna poi vedere, perché se... Allora, sì, tutte chiacchiere, poi si è un po' già tirato indietro. Vediamo che se uno fa così, diciamo che è un'affermazione estremamente stupida. E anche perché è uno che fa il medico, non che è un medico, e la differenza ma soprattutto sta al pronto sottile. Soccorso sta al pronto soccorso, per cui è impossibile ancora, va anche in galera allora. Ma non può non curare le persone, lui ha detto se proprio devo curare questi razzisti che hanno fatto questo manifesto, questo cartello, lo farò senza empatia. Vabbè. Ma io nella mia vita ho curato un sacco di comunisti come Parenzo che mi facevano schifo fuori dall'ospedale, però ma io non sono comunista. Vabbè, similtali, sì, similtali. No, io sono socialista liberale, cresciuto alla scuola dei fratelli Rossi. È un macroniano, deve trovarsi una moglie di 82 anni, allora. Allora, Giordano da Brescia mi sembra leggermente anticomunista, il signor medico da Brescia. È un po' sì. Giordano da Brescia. Grazie, Massimo Ancona, vai. Ciao. Massimo. Arrivederci. Ciao, buonasera Giuseppe, grazie che hai difeso i camionisti. Grandi camionisti. Vediamo se uno normale chiama da qui alle 22. Vai, Massimo, Massimo. Fermo là. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. La Zanzara. Dai, denunciami, Parenzo, io te l'ho già detto un mese fa che io delle tue denunce mi sciacco i coglioni, hai capito? Allora Massimo, eccoci, vai Massimo. Sì, eccoci qua. Niente, una semplice riflessione. Io sempre riguardo alle tre Rom, sì. Morte nel logo. Io dico una cosa, il mio pensiero, se tu vivi producendo odio, facendoti odiare in continuazione, non dico quelle tre persone, però in generale è normale che quando poi ti capita una disgrazia c'è chi gode in silenzio e chi magari lo esterna. Cioè, siccome la comunità rom si fa odiare, tu dici, rom si fanno odiare, allora si quando ne muoiono tre, ascolta, anche in un rogo, la gente non gliene frega un cazzo. Sempre un mio pensiero, io non vedo nei rom voglia di integrarsi, perché tra di loro sono molto solidali. Molto solidali. Beh, però oddio, in questo caso, no, in questo caso non sembra, dato che forse è una faida, non è un atto di razzismo. Quello può per essere cui... anche uno sgarro tra famiglie e famiglie. Si scannano non so, tra di loro. No, la vergogna è che per tutta la giornata di ieri abbiamo assistito, compreso Parenzo, a una sorta di razzismo, no, l'intolleranza, Salvini colpevole, stupido. Forse dico forse, perché io dico sempre forse era una faida tra famiglie e rom. Ascolta, io ti faccio un esempio stupido, se tu c'hai un compagno di classe quando andavi a scuola che ti menava tutti i giorni e poi lo vedi cadere in motorino e si spacca un braccio, non sei contento? Beh, oddio, quando ero ragazzino sì. Mi pare l'esempio, quando hai l'istinto di un ragazzino, appunto, poi l'età matura, esatto, dovrebbe farti ragionare. Però vedi, capisco adesso... che invece qui domini l'istinto, quindi questo figuriamoci. Ma non è, ecco, allora, l'Italia è grande, magari, ecco, dove abito io, per dire, una zona tranquilla, però c'è qualcuno che veramente ha portato l'esasperazione. E questo quindi giustifica poi di esultare per la morte di tre persone? No. E allora fine della discussione, basta. Assolutamente no, non si esulta per la morte allora, di nessuno. Beh, allora scusa, che dici a fare? Cioè, che parli a fare? Tu hai detto che ti sembra plausibile che qualcuno esulti perché questi qua si fanno odiare. È inutile che dici di no, questo hai detto all'inizio. Massimo, sì, ciao. Sì, ciao. No, ma lo confermo. Ciao. Io però chiederei lumi, caro Parenzo, su quello che può essere successo a queste tre rom bruciate vive, arse vive, a una persona che conosciamo in un campo rom di Roma, la signora Sabbaeta. Che ne sa? La allora signora Sabbaeta. Allora Sabba, che ne sa? Sentiamo la Sabbaeta. Pronto? Sabaeta? Sì? Come andiamo, amica mia? Ah, male! Che è successo? Paura! Che è successo, paura? Perché paura? Perché paura adesso anche di noi, perché anche a me mi è successo una cosa incredibile prima un anno fa. Cioè anche che... a me mi hanno messo bruciati mio tutta casa, tutto, meno male che non erano bambini. Invece questo di Sali è una vergogna. Ho capito, però pare che siano stati altri zingari, altri rom, pure loro. No. Ma come no? No. Pare una faida. No. Ma come fai questo a... Questo erano razzisti. Ma come e fai a... Mi hanno minacciato prima 2 o 3 giorni che 3 bambine hanno andati vive. Bruciate vive, una vergogna. No, però Sabaeta, amica mia, adesso stanno facendo le indagini e sembra che sia una faida interna alla comunità rom, capito o no? Tu non ci credi? No. Tu chi pensi che siano stati? Razzisti italiani? E chi può essere altri? Noi queste cose non le facciamo proprio. Beh, come non le fate? Anche se siamo in sangue, anche se siamo mai, io se c'è qualcosa matti tu me, io vengo a ammazzare altre persone, non è giusto. No, ma chi ha detto che è giusto? Lo sai quante persone che sono ammazzate tra di noi, ma noi lasciamo stare, questo non è giusto quanto una 3 bambine bruciate. Amica mia, però sembra, ripeto, che possa essere stata una faida all'interno delle vostre comunità. Tu conosci questi Alinovic? Conosco, sì, brave persone. Beh, non sono proprio bravissime persone. Sono bravissime, insomma. Comunque stiamo a vedere, ha ragione la signora Sabbaeta a dire stiamo un attimo a vedere come si sviluppano. No, lei ha detto che era il razzismo, ha subito detto non lo razzismo. So, adesso... Come fai a dire razzismo, scusami? Chi può essere razzisti? Tu hai già detto razzismo, okay. Come te, Parenzo, gridate subito razzismo, no, razzismo. Ecco, io ce l'ho, giornale. C'è telecamera che l'ho visto. Sa tutto, ho capito, Sabaeta, ma pare che siete stati voi, tra di voi. Non è detto. Ma vai via, scemo. Perché dici queste perché cose? Ma è una signora. Ma non è prova. C'è un... Noi non siamo in sangue no, con loro. Cara, ma non c'è voi, un'ipotesi, tu. No, c'è solo un'ipotesi. Dicono che magari una vendetta di qualcuno. qualcuno interno al campo, ecco, tutto qua. No, come che sei? La polizia? Stiamo a vedere. Che senti, sei, se polizia? Maeda dice così, avrà i suoi elementi per dirlo. Che quindi dicono lì al tuo campo? Al tuo campo? Ma perché telecamera l'ho visto? Ha visto camera? Sia Rom, sia non lo so quale persona. Devi pagare. Bravo. Sì, va bene, d'accordo. Ha proprio il senso della legalità. Però e del voglio diritto. Dire, poi non è che puoi dire deve pagare, poi là al campo è pieno di ladri che non pagano mai. Dai. Ladri, ma voi non siete ladri. No, noi non siamo. Ancora, siete io adesso ladri, no. Siete manzo. Pieni di ladri che rubate milioni. Sì, non questo è anche vero, più. Però. Ma no, ma tu lo sai, ma me l'hai detto tu. Me l'hai detto tu che è pieno di ladri lì al campo che fanno i portafogli. Che ladri, che ladri. Fanno i portafogli o no? Vabbè, qualche portafoglio. Ma via, mica sono tutti. Ladri. No, tutti, molti sono. Gli italiani non sono ladri. Scusa, cara, cosa hai fatto di buono stasera per cena? Io mangio spaghetti. Che spaghetti mangi, cara? Mangio spaghetti, sugo, ragù e basta. Dovresti dimagrire un po', Sabetta, no, dovresti un po' dimagrire, eh? E che te ne frega? O oh, no? Io magrire, no, io voglio grassarmi. Voglio diventare bella grassa, bella tosta, che bella te ne frega grassa. Te di cosa fa Sabetta? Immagine classica, no, grazie. Hai trovato lavoro, Sabetta? Tu sei rotta il cazzo. Sei arrabbiata, scusa. Che discorsi sono? Sabetta. Si è arrabbiata la Rom. Si è arrabbiata la Rom. Sta al telefono con la zanzara e si arrabbia la Rom. Tratta sempre con disprezzo, con rabbia. Dai. Tratta allo stesso modo quei miserabili razzisti che chiamano. Anziché titillare quei razzisti che chiamano. Trattali allo stesso modo. Ti segnalo che la Caritas di Vicenza. Anzi, fai così. Dai il numero del primo, quello lì di Luca, quell'imbecille. No, non si può dare. La Caritas. La Caritas di Vicenza. Sabaeta, dagli il numero di quello di Luca. No, quello. La Caritas di Vicenza. Dagli il numero del razzista, così si vede. Sabaeta gli fa un bel ricamino. Daglielo, la Caritas di Vicenza si è arresa. Impossibile integrare i Rom. Ci abbiamo provato. Ce l'abbiamo fatta. Lei a leggere, ti giuro, lei a leggere. Senti, per avere pazienza, si chiama Caritas. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore, Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi! La zanzara. Ciao Cruciani, sono 7-8 anni che ascolto la zanzara, sempre, tutti i giorni. E devo ammettere che io ho iniziato ad ascoltarla perché ero come te. Cioè, ero una persona brutta, abietta, non mi lavavo, puzzavo, usavo le donne, tutto quanto. E nell'ascoltare la zanzara sono diventato parenziano, cioè a me la zanzara mi ha migliorato, non sono peggiorato, mi ha migliorato. L'unica cosa che non ho di Parenzo è a me piace il dito in culo. Scusa David, costui può essere annoverato tra che cazzo stai facendo? Che stai facendo? Dottore, ha sentito brutta parola, ha lasciato il microfono a me anche se GVD. GVD, Filippino no la vola. GVD? Ma che è sto rumore? Ma che non rumori fai? Non è telefono da tole. Non è telefono da tole. È la colte. È criminale no, la colte. No, no, che no, per no, scleditale, no. Dottore, crea disturbo radiofonico su emittenza lomana. Dottore è uscito. GVD, dottore, non la vola io. Ma che è sto straordinario? Oggi ho pagato solo 22 euro. No, però, scusami. Uno che dice che usa, ama farsi, come dire, toccare nelle parti, nel di dietro, da parte della fidanzata, può appartenere dottore, alla maggioranza silenziosa. Dottore, no, questa è la pleso appellitivo con dottore Micheli. Dottore no, Micheli. Dottor Micheli. Non sì, sì, pleso appellitivo con dottore Micheli. Allora, Aurora Milano, vai Aurora. Eccomi, ciao. Dimmi Aurora, dimmi che voce, vai. Allora. Dai ragazzi, non mi fate sto casino, su, dai! Aurora, dimmi. Volevo dire a quella perla, quel puntino di Parenzo, che la deve smettere di difendere gli indifendibili. Perché se gente che per una faida ammazza tre ragazzine, sì, non è dei razzisti a noi italiani, ma come li definisce questi? Mi ricordo quando ha fatto il mediatore, faccio il mediatore perché voleva fare recuperare la casa di uno che era stata occupata dai rom. Sì. Ma perché non se li porta a casa? Con questa, casa, voce gentile, signora, con questa voce gentile, con questa voce gentile, portate a casa i rom, sì, dice la signora la Aurora. La signora dalla da voce così gentile mi ricorda tanto quel bellissimo saggio che si chiama La banalità del male. Tu lo citi, sì, continuamente. La dai. Signora è la banalità del male, cioè la persona comune che è pronta a chiudere gli occhi di fronte alle efferatezze, di fronte a cose terribili come la morte di tre persone. Appunto, e allora, è proprio perché sono morte tre persone, ecco, che sono indifendibili. La morte di quelle tre persone, la morte di cosa c'entra con la morte di quelle tre persone? Cosa c'entra? Ma quanti cosa muoiono c'entra? Ammazzati da questa come gente? Si chiama questa? Se io fossi come si chiama stata questa in Crudelia casa? Demon? Come si chiama Aurora? Sì, esatto, Crudelia Demon. Esatto, come si piacere. Chiama questa Aurora? Aurora Demon, la signora piacere Aurora. Piacere Crudelia. La signora Crudelia Demon, nome, che ha un nome che ha questa voce anche apparentemente gentile dal contenuto, sì, terribile. La signora però ti vuole dire che sono capaci di ammazzare tra di loro questi non me ne frega nulla, giusto, il dato barbaro di quello che lei è, signora barbarica, lei è barbarica, cara, no, signora barbarica, perché allora, se ricordo che sono morte due bambine e una bambina di 20 anni, la fai parlare, la fai che parlare. Non erano tre criminali, allora, e anche fossero stati tali dovevano stare in galera e non in un rogo, ma non allora lo erano criminali, allora, quindi chiuso allora la discussione, vai. grazie Cruciani, dimmi Aurora, dimmi vai. Io, innanzitutto, io non sono crudele perché io ho girato tutto il mondo, tutti i paesi, sì, africani, tutto e quanto, e ho amici, e mia mamma è slava, per cui stai allora parlando proprio. Che vuol dire? Allora, scusa, Aurora, tu squirti, scusa, giusto per capire, ecco, bene, pratichi lo squirti. Così, una parentesi, così mi è venuto al volo, così, dato leggera, che sei così gentile, sarebbe anche bella, sì, questa cosa. Ah, sì, però, per carità, noi siamo tolleranti, anche le persone che non lo fanno. Ti posso fare questa domanda? Non ho capito la domanda. Lei, signora Aurora, squirta? Ma cosa vuol dire? Confesso la mia ignoranza, non so cosa vuol dire squirtare. Lei non sa che cos'è lo squirting, signora. Vabbè, abbiamo fatto, diciamo, delle monografiche in questa, esatto, in questa trasmissione. Comunque, non sa cos'è lo squirting. Sono state fatte delle monografiche. Lei non, lei non sa davvero che cos'è lo squirting? No, perché purtroppo ultimamente ricevo sempre telefonate dalle 6:30 in poi. E che telefonate riceve tra le 6:30 in poi? Scusi. Telefonate di gente che mi vuole salutare perché alla fine torno dal lavoro, per cui ho più tempo per poter parlare e non riesco assolutamente più, ecco, a abbiamo fatto delle trasmissioni monografiche sullo squirting. Adesso mi informo. Ecco, si informa. Guardi squirting, poi la richiamiamo. Magari è una cosa che lei pratica, che lei sa, che lei conosce. Trattasi dell'eiaculazione femminile copiosa, diciamo, di una specie di eiaculazione femminile copiosa. Cioè dire, è un modo di affrontare la sessualità, un modo di essere, un modo di esprimere il proprio godimento particolare con una specie di fontana. Ecco, una fontana di quella che io definisco una fontana di vita. Comunque questa è una parentesi, cara Aurora. Quella che io definisco una fontana di vita. Vabbè. Crudelia squirting. Vabbè, Crudelia squirting, vabbè, devo dire che Aurora è il numero uno, è Crudelia squirting. Ah, ecco, comunque io ho avuto gli zingari in casa tre volte, sì, e quella prossima volta do l'indirizzo di Parento, perché non dà l'indirizzo come no, non è bello l'indirizzo, perché non devo dare nessun indirizzo, appunto, io, signora, appunto, perché deve l'oggetto dare della nostra l'indirizzo di questo forum che stiamo facendo, di questo forum immigrazione che stiamo cercando di trattare, l'oggetto è la morte di tre persone. Io vorrei che si focalizzasse e ma alla se sono stati loro, silenzio, se si sono ammazzati tra di loro, io ragiono sulla reazione, noi portiamo in casa mamma gente mia che succede fra di loro, ma che cosa non hanno rispetto di ma io sto delle ragionando sulla reazione di alcune persone a questa notizia, è questo che voi non capite, che mi fa indignare, che fa indignare la allora maggioranza silenziosa di questo paese, no, la maggioranza, ecco, silenziosa è quella che non telefona ma che non pensa a queste porcherie. Lei, signora mia, da questa voce apparentemente come dire suadente e gentile, è una barbara. Ma no, che barbara, Aurora, barbara. Crudelia Squirt, dai, su. Crudelia Squirt, esatto. Scusa, però, vedere che significa. C'è un'altra cosa, cara, ecco, Aurora, è questa. Lei ha un compagno, un fidanzato, un marito? Sì, Lei è con un compagno, bene. Questo compagno, siamo tutti felici. Lei quando siete in una situazione cosa di intimità, diciamo, in una situazione cosa di intimità, chiedere, io mi permetto, sì. Scusi, mi sembra di conoscerla quasi come una sorella, diciamo. Sicuramente ha una certa intimità con questa trasmissione. Dunque mi posso permettere di chiedere tanto a quest'ora, insomma, non succede nulla. Quando lei è in una situazione intima, ecco, ha mai provato ad infilare il dito nelle parti intime? Vuole altro champagne? O è una cosa che non pratica, il dito nelle parti intime del di dietro del suo compagno? O è una pratica che ha utilizzato qualche volta o no? Mai. Bisogna provare tutto quasi nella vita. Hai capito? Dunque, ha provato questa cosa, l'ha provata questa cosa il suo compagno, ma è normale che sia così, l'ha provata questa cosa. Signora. Cioè ha fatto emozionare il suo compagno praticamente quasi, non dico sodomizzandolo, ma quasi. Ha fatto questa operazione. No? Razzista eppure schifosa, vabbè. Ha fatto o no? Allora, io non sono né razzista né schifosa. Esatto, invece lei è un giudice bigotto, che sono poi quelli che ne sanno ottimo, peggio di tutte e di nascosto, perché chi si permette di giudicare sempre gli altri senza conoscere come fa la perla col puntino, è proprio la classica persona che poi invece ne fa di cotte di crude. Di cotte di crude, cioè. Brava Aurora. Dunque, allora, conclude in bellezza. Continua in bellezza a mettere il dito a suo marito. Non ha detto niente, però adesso me lo dice. L'ha mai messo un dito nel sedere di suo marito, sì o no? Non completamente, diciamo. Esatto. Non completamente, cioè ha fatto accarezzato. Mamma mia, ragazzi, ma è una notizia incredibile questa. Fermate le rotative. Grazie Aurora, un bacio. Grazie, grazie. Un bacio. Grazie, ciao. Ciao. Ciao. Nel frattempo, caro David, siamo andati a capire cosa succede in quei sobborghi di Cuneo dove non vogliono i negri. Lo hanno scritto loro, non è che lo diciamo noi. Bravo. I sobborghi di Cuneo. Noi abbiamo creato un'associazione, si chiama Forza Immigrati. Ma senti, torna Udine. Pronto? Sono Negri, presidente dell'associazione Forza Immigrati. Ma è vero, signora, che nelle vostre frazioni siete tutti contrari agli immigrati? Sì. Ma non vi vergognate? No, non mi vergogno, no. Allora fa benissimo. Perché non hanno il lavoro i nostri figli e vengano gli altri? Ma dai! Ma signora, questi qua sono dei disgraziati che arrivano... Sì, pronto? Sì, buonasera, mi chiamo Negri, sono il presidente dell'associazione Forza Immigrati. Ah, sì. Senta, è vero che voi non volete gli immigrati? Che nelle vostre frazioni avete esposto il cartello "noi negri non li vogliamo"? Ecco, fa, lei inizia una telefonata in questo modo. Perché non dovrei iniziarla, mi perdoni? Io sto difendendo questa... Non sa con chi sta parlando, non sa con chi è? Senta, inizia già a farlo indignato con me. Dovreste vergognarvi a non volere questi disgraziati di immigrati. Che cazzo ne sa, scusi, come la penso io? Me lo dica allora me lo dica, allora ha fatto benissimo. Ma io con lei non voglio proprio parlare, devo dire a lei, io non so lei né chi è né cosa lei vuole. Lei si deve vergognare. Lei si deve vergognare. Sì, si deve andare a fanculo. Lei si deve vergognare. Lei se ne deve andare a fanculo. Io non l'ho offesa. Lei con tutta la sua testa di cazzo che c'ha. Io non l'ho offesa. Lei mi viene a telefonare a me, fa l'indignato con me, mi parla di immigrati. Si vergogni. Quando non sa nemmeno con chi cazzo sto parlando. Ma si va a cagare il cazzo da un'altra parte. Si vergogni. Cretino. Sì, cretino, sua sorella. Fa bene quel medico che si rifiuta di curarmi. Vai a cagare il cazzo da un'altra parte, scemo. Se sei malato, fatti ricoverare. Si vergogne, si vergogni. Io mi devo vergognare, ma fatti curare che sei malato. Ma chi, io sono ma con chi cazzo sto io parlando sono il io? Presidente dell'associazione Forza Immigrati. Lei non tu sa chi sei. Presidente di sto cazzo sei. Ma chi sei tu? Ma che cazzo vergogna vuoi? Prendo vergogna un numero di telefono e parli come uno scemo. Ma con chi siete cazzo dei sto razzisti parlando? Siete dei razzisti. Razzisti, ma vai a fare in culo. Ma non sai nemmeno con chi cazzo stai parlando. Lei è un razzista, cretino. Questa è la verità. Tu sei un cretino, tu sei un cretino. Io sto dalla parte dei più deboli, non si tu permetta. Tu sei dalla parte dei coglioni se parli no, così, che è la parte dei più deboli. Non si ma permetta. Ma vai a cagare, picciu. Ma va. Si vergogni. Parale. Sì, buonasera, sono Negri, presidente dell'associazione Forza Immigrati. Volevo chiederle, ma è vero che voi della frazione Ruota Canale non volete dei poveri immigrati? Sì. Non li volete? No. Pronta? Non è bello sbattere il telefono in faccia, signora. No, si deve rubare con quelle cose. Si deve vergognare. Ma mi disturbate, dite ancora che delle belle ho dato il telefono in faccia, eh? Ma avete esposto il cartello, noi negri non li vogliamo! Ma lasciatemi in pace, non disturbatemi! Sì, buongiorno, buonasera. Buonasera, mi dica. Salve, buonasera. Qui è l'associazione Forza Immigrati. Sì. Abbiamo parlato prima con un signore, anzi un nostro dipendente ha parlato con un signore. Sì. Me lo può passare un attimo perché dobbiamo un po' chiedere scusa per quello che è successo. Sì, solo un attimo. Sì. Pronto? Sì, scusi, bene. Guardi, ha chiamato un nostro dipendente, sì, prima. Siamo dell'associazione. Il nostro sottoposto, Mercu. Dobbiamo chiedere scusa per quello che è accaduto. No, ma non vi preoccupate, perché assolutamente. È stato molto violento al telefono, sì, capito? È stato no, molto... no, ma non c'è nessun problema, non ci sarà nessun problema. No, sa, no, ma noi... è stato increscioso, spero, cioè, che lei non voglia denunciare. La nostra associazione è un'associazione che si chiama Forza Immigrati, che è per l'integrazione, certo, per la, come dire, per la presenza degli immigrati sul territorio, eccetera. Siccome là si sono verificate delle cose spiacevoli da quelle parti là, no? Cioè spiacevoli, non li volete in pratica, non lei in particolare. Ma io non abito nemmeno là, oltretutto. La, sì, prima cosa che gli ho spiegato è che io non abito là, non c'entro niente. E lui lo so, è stato troppo... Ma non ci sarà nessun... Non dovete chiedere scusa, non ci sarà nessuna... No, noi ci teniamo, ci teniamo, capito? Siamo, per noi... siamo i dirigenti di questa associazione che, sì, è a favore dell'integrazione, spero che, sì, anche lei sia a favore dell'integrazione, immagino. Se mi inizia a fare delle domande, io ho detto buon, basta, io non va bene, io accetto le scuse, buon, basta, a posto, non... no, tutto regolare, sì, tutto regolare, quindi possiamo iscriverla all'associazione, allora. Però certo che quella roba lì è stata una vergogna, quel cartellino che ho scritto, non sua, noi i negri non li vabbè, vogliamo. Però lei adesso però mi sta ridicendo. Amico mio, ma uno scrive negri, la possiamo iscrivere all'associazione, allora, mi pare di capire, giusto? Quindi lei aderisce con quanto? 20 euro, 50, c'è la tessera socio che può essere anche 500 euro, quanto ci dà per l'associazione? State scherzando di grazie di avere con questa telefonata, lei sostanzialmente accetta di aderire al nostro movimento Forza Migranti. Io non accetto niente. Grazie intanto per aver chiamato, e quindi le diamo la tessera, può scegliere però anche la tessera euro, gold, 50, cioè, quella tessera gold da 500, esatto. Ma è certo, butta giù, butta no, giù. Ma no, che come ormai avete accettato. Basta sentire la trasmissione anche di Radio 24, quella del pomeriggio tardi, il peggio del peggio dell'animo umano. Ma sento tutto, solo culo, niente, capito? Sì, questo l'ho capito, c'è tutto, anche rapporto, tutto. Sì, culo, niente. Sì, ma questo l'ho capito, culo, niente, questo ho capito. Vuole massaggio romantico. Culo, niente. Per una notte romantica. Culo, niente. Impreparato mi coglie. Ehi, cosa fa? Capito? Chi glielo spiega a mia moglie? Massaggio tutto. Vai col massaggio romantico. Oh, oh. Vai con la notte romantica. Ah, ah, ah. Ma quanto è brava la Cina. Sì, solo culo, niente. Capito? Nell'arte della... Ma questo l'ho capito, culo, niente. Questo ho capito. Manina. La zanzara. Lorenzo, dopo che gli hai fatto la marchetta a Soros, oggi hai detto viva Rothschild. Mi fai veramente schifo. Fagli pure un seghino a Rockefeller, già che ci sei, ed hai fatto l'unplane. Ha ragione Mauro da Mantova, sei lo scroto di George Soros. Esco dal lavoro tristissimo alle 7:20, giornata di merda. La ragazza mi rompe i coglioni, sto tornando a casa già incazzato. Vabbè, mettiamo il podcast della zanzara, pronti via. Zucchero, la, zucchero, la, sento quel coglione di Parenzo che canta l'inno. Grazie. Sono ad informare il maestro di vita Cruciani, l'arte del dito in culo è chiamato in gergo bolognese il tourmente. La Zanzara. Allora, caro David, c'è un signore che è uno psichiatra, si chiama Segatori, uno psichiatra anche abbastanza conosciuto, fa parte di, anche di associazioni importanti nel campo della psichiatria forense, così si dice in gergo, così si dice in modo tecnico, uno psichiatra il quale sostiene che il nuovo presidente francese Macron sia uno psicopatico. Uno psicopatico. Fammi capire, forse ero distratto. Allora, c'è uno psichiatra italiano che si chiama Segatori. D'accordo. Si chiama Segatori. Non ha il cervello segato. Non ha la segatura nel cervello. Ecco, così sembra. Magari ce l'ha. Che sostiene il professore? Sostiene che Macron, il nuovo presidente francese, sia uno psicopatico altamente pericoloso. Altamente pericoloso. E addirittura ha uno sviluppo psichico. Assolutamente da fermare. E tu immagino vorresti contattarlo questo? Questo non lo so, intanto sentiamo quello che ha detto. Perché ci troviamo di fronte a un individuo, Emmanuel Macron, che come organizzazione psichica è perfettamente definibile come psicopatico. Lo psicopatico non è un insulto. Insomma, non è un insulto, uno psicopatico dice altamente pericoloso. Quindi qual è il problema? La domanda, se un giudice dovesse chiedermi, come in ogni perizia psichiatrica, cosa ne penso sulla pericolosità di queste persone, direi che non ci sono dubbi. Macron, Emmanuel Macron, come tutti gli psicopatici, sono altamente pericolosi. Ha subito un abuso sessuale a 15 anni. Il giovane Emmanuel Macron, all'età di 15 anni, ha subito un gravissimo abuso sessuale perpetrato dal suo insegnante, Brigitte. All'epoca lei aveva 39 anni, lui 15. Se fosse avvenuto in un ambiente proletario, sarebbe in galera, Brigitte. Negli ambienti bene di Parigi, perché se questo episodio fosse accaduto in un ambiente proletario, quello stesso ambiente che Macron, sia dal punto di vista verbale che non verbale, non tollera, non sopporta, lo disprezza, le cose sarebbero andate diversamente. Il giovane Macron sarebbe finito ai servizi sociali, sostenuto dagli psicologi, e Brigitte sarebbe finita in carcere. Mentre i serial killer rovinano le famiglie, gli psicopatici al comando rovinano le società. I serial killer rovinano le famiglie, mentre gli psicopatici ai vertici dell'economia e della politica rovinano intere società. Ora, secondo te è un pazzo questo Segatori? Guarda, amico mio, guarda, io credo di avere al momento 23-24 querele, no? Procedimenti aperti, però mi sembra di poter dire, senza la possibilità di essere smentito da alcuno, che questo simpatico psichiatra forense, come tu lo hai definito dalle parole che hai fatto ascoltare, mi pare di poter dire con assoluta e sincera serenità che forse no, non dire forse, se non avere paura, forse è un coglione. Come dici? Un coglione, dici. Hai detto troppo poco, sai, caro. Hai detto troppo cosa poco. Diresti? Non ho capito. No, cosa hai detto? Hai limitato il campo d'azione. Un imbecille, un cretino. Cioè, lo psicopatico è lui, dici te. Invece... Guarda, caro amico mio. Guarda, caro amico mio. Roberto, provincia di Milano, dai, Roberto. Dimmi, Roberto, dimmi. Parenzo continua a parlare di denunce e di provvedimenti eccetera, ma lui è al corrente del fatto che se dovesse essere raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare probabilmente per la legge del carcere non arriva l'indomani mattina? E perché, scusa, non ho capito, perché dovrebbe essere ammazzato in carcere? Non ho capito, posto che vada in carcere una notte, no, posto che vada in carcere ovviamente, però tu sai qual è la legge del carcere, Cruciani, che io difendo l'indifendibile. Ma che c'entra? Se qualcuno tocca mia figlia, sì, io sono dentro e io ti uccido. Ma se tu difendi chi tocca mia figlia, uccido anche te. Di cosa sta parlando? Non ho capito il nesso. Parenzo, chi è che difende? No, non, cioè, non fate finta di fare i pai qua qua qua, perché non ha non ho capito qual è il nesso di questo. Che cazzo dico io? Ma che cazzo dici tu? Ma che dici? Sto dicendo che se tu difendi gli indifendibili, quando arrivi in carcere, io faccio giustizia. Qui non c'è legittima difesa di notte o di giorno. Se qualcuno stupra mia figlia e ma chi l'ha messo in discussione? Non ho capito perché Parenzo l'ha messo in discussione. Parenzo è un rom, perché è un negro. Io uccido anche te. Questo è il messaggio. Punto. Ma non ho capito. Tu stai dando un messaggio assurdo. Tu stai dando un messaggio. Ho capito. In carcere funziona così. Capito. Sei stato in galera? Sei stato in galera? Si capisce che sei stato in galera, certo. 15 anni su 51, fratello. 15 anni su 51. 15 anni su 51. Quindi lei non è propriamente una brava persona, diciamo. Assolutamente no, assolutamente no. Oh, meno male. Non sono brava. Meno ho male. Fatto delle scelte, le ho pagate. E bravo. Ma perché cosa? Quali reati ha commesso per stare così a lungo in galera, cara brava persona? Facciamo che chiama? Facciamo l'elenco. L'elenco. Più importanti. No, l'elenco voglio io, l'elenco. L'elenco è associazione a delinquere, truffa, falso, recettazione, Bravo. E non le basta questo per starsene zitto? E purtroppo un tentato omicidio. Mai nulla che riguardi droghe, mai nulla. Vabbè, che riguardi armi. Ma che c'entra? Ha commesso dei delitti, dei crimini pazzeschi. Io non mi vanterei fossi lei, ha commesso dei crimini pazzeschi. Io di fratello ne ho uno che fa l'avvocato. Io Bravo. Sono un uomo che di fronte alla giustizia ha pagato, però certo, un orgoglio e un onore. È un ex criminale. Se tu tocchi qualcuno, e se non mi serve la legge, se tu tocchi qualcuno che io non posso difendere perché occhio sono occhio che lei rifinisce in galera, tu... Vabbè, che cazzo vuol dire? Tanto ci abituato. Scusami Roberto, andiamo a intenderci. Io non ti sto rimproverando il tuo passato. Sei stato in galera 15 anni su i 50 che hai detto della tua vita, su 51, cazzi tuoi, va benissimo. Sì, se ti, no, fratello, se ti piace no, così, fratello, niente. Vabbè, dai, è un intercalare, fratello, dai. Beh, fratello. Allora, Tu chiami fratelli negri e dici a me che non posso dire fratello a Cruciani. Ma a me, se sei fratello di Cruciani, benissimo. Facciamo ma no, ma dici fratello, come intercalare. Comunque io non sono qua per discutere con te, ti sto dicendo. No, però scusami Roberto, però scusami, siccome sei qua non è che puoi, certo, dire, puoi fare il cazzo che ti pare, scusa, non è che siamo in galera qui. Altro, ma neanche tu però. No, ma io sì perché comando qui. Qui c'è un altro codice. Non comandi un cazzo, fratello, sono 30 minuti che ascolto le vostre frontate. Qui c'è un altro codice, Roberto, mio, Roberto, non è che siamo in galera qui, qua non siamo in galera. Codice, c'è un altro codice qua. Io non ho detto niente. No, qui in questa no, io non ho detto niente. In questa trasmissione c'è un altro codice, altre regole d'ingaggio, capito? Ma la vita ne ha una sola di regola, ecco, la vita, caro, ne ha una bravo, sola di regola, bravo. C'è quella sulla strada e c'è quella dentro. No, d'accordo strada. Roberto, io voglio capire una cosa, perché Parenzo sarebbe trattato, che ne so, come un pedofilo in carcere, cioè stuprato, ammazzato, quello che è, cioè picchiato, perché, cioè, perché che cosa ha fatto di così grave? Le categorie più bieche. Ma non difende i pedofili, non l'ha mai difeso i pedofili, non l'ha mai difeso. No. Non mettete in bocca qualcosa che io non ho detto. Ma scusa, come non hai detto? Ha detto sarebbe trattato come un pedofilo in galera. Io ho detto che sarebbe trattato come un pedofilo, non che lui sia un pedofilo o difende. Cioè, tu se lo incontrassi in galera lo ammazzeresti, lo sodomizzeresti. Se lui mi difende i rom che mi entrano in casa e mi fanno del male alla famiglia, ma non li difende. Non posso difendere. Io non difendo, i criminali, non difendo i criminali, quindi non difendo, neanche lei che è stato un criminale. Beh, visto che lei è stato in galera a lungo, diciamo, e ne conosce i meccanismi, dovrebbe apprezzare. No, tra l'altro sicuramente avrà avuto delle pene diminuite perché 15 anni su 50 per tutti i reati che ha detto. Vedi, ci sono a volte degli errori nei casi giudiziari. Qualche tempo fa voi avete fatto una bellissima trasmissione. Aspetta Roberto, fermo un attimo, mi devo fermare un secondo, resta con noi, aspetta. Tu sei il più grande culatore del mondo. Sei il più grande culatore del mondo. Cattiva! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Comunque non lo so chi è stato, di c'entri questa casa dei campo dei Rom, di massare due bambini, la loro madre e non solo la loro sorella, ma tutto successo. Ci sei anche tu a mano, Cruciani, perché sei sempre un testa di cazzo che odioso verso i Rom, parli sempre male, favorevole sempre della gente che cercano tutti i giorni la violenza sui Rom. Però prima o poi, ripeto, prima o poi arriverà la bomba sotto il culo a tutti voi, quelli che trattate male le persone umane, cristiani come voi, magari meglio di voi, bastardi. Ma chi è sto coglione? Ah, è quello là che ogni tanto chiama, è lo stesso della Lores, poi vuole andare a braccetto con la Lores, capito? Si arrapa con la Lores, questo qua, capito? L'extra com. Ma dai, su, anche tu bastardo, Cruciani, bastardo. Sì, ce n'è anche per tu, te, bastardo, ce n'è per tutti, istichi ce n'è per tutti. A violenza contro i Rom. Ma eravamo in collegamento con uno straordinario personaggio che è Roberto della provincia di Milano, passato 15 anni sui 51 che ha in galera, così ci ha detto, per diversi reati, e che sosteneva una tesi. Date le posizioni che prende Parenzo sul mondo Rom, sul mondo dell'immigrazione, eccetera, eccetera, che diciamo sono favorevoli all'integrazione, io direi. Sono favorevoli al fatto che non... Magari tu, Parenzo, prendi un po' sotto gamba i crimini dei Rom o i crimini degli immigrati, li prendi sotto gamba, non sei particolarmente feroce, no, da questo punto di vista. Comunque, Roberto dice che di fronte a questa cosa qua, tu se vai in galera saresti trattato praticamente malissimo, anzi no, saresti trattato come un pedofilo, giusto Roberto? Assolutamente. Ma qui non è questione di cattiveria o non cattiveria. In un mondo perfetto non ci sarebbero i migranti, non ci sarebbero le carceri, non ci sarebbe nulla. Beh, le carceri, il mondo non è perfetto. Il mondo non è perfetto. Ci sono delle regole, giuste o sbagliate che siano, vanno rispettate. Io le ho accettate e ho pagato. Quando tu entri, tu lo sai che cosa succede ai pedofili quando entrano in carcere? Durano due ore. Non lo so perché. Durano due ore, perché ce ne saranno di pedofili in carcere. Poi, perché li tengono a parte quei nei reati comuni, con i travestiti e con gli spacciatori di piccola taglia e con i marocchini. Ma sai chi è il primo a comunicare qual è l'avviso di garanzia che ti porta in carcere? La guardia. Allora? Tu come entri in carcere, la guardia comunica l'avviso di garanzia che ti ha portato lì. E quella è la conseguenza del tuo essere. In un mondo perfetto questo non succederebbe. Se tu difendi qualcuno che ha fatto male alla mia famiglia, ma non a prescindere, non è che è il Rom. Ma ho capito, ma che c'entra Parenzo adesso? Tu hai detto una cosa gravissima. Se tu difendi qualcuno che entra in casa mia, fratello, io non sono a casa a difenderla. Difendo io. Intanto la smetti e chiami il fratello, perché non c'è nessun tipo di rapporto. No, ma hai ragione, effettivamente tu criminale. No, ma hai ragione. Questo criminale qua. Non devo chiamare fratello. È un criminale, ha pagato 15 sì, anni. Sì, adesso lo difendi, adesso. Non lo sto difendendo. No, ma se mi chiami criminale, non è che mi dà fastidio. Beh, ex criminale. Beh, voglio dire, io non è che posso rinnegare qualcosa che ho fatto scientemente. Ma oggi che fai tu? Non ho capito. Oggi purtroppo non faccio un cazzo. E come fai a campare? Scusa? Come campi? Con i sussidi? Come campi? Con qualcosa, fai qualche lavoro, qualche puttanata a livello di qualche ritornata da conto, con i voucher non ti fanno più lavorare. E col passato che hai, ovviamente, non è che mandi curriculum e sono tutti lì a tenderti la cosa davanti. Lavoro anche con persone extracomunitarie, non mi frega niente. Ma questi lavorano. Non è tanto difendere una razza, una setta, una religione, è difendere un tipo di reato. Vabbè, però Roberto, scusa, ma lui non difende, ma non difende, dai, adesso non è che difende. Meno male. E allora è un teatrino, fra no, allora ma è un no, teatrino. Ma no, io teatrino. Non difendo chi commette crimini, come lei sa. Io mi sono semplicemente, non dico neanche indignato, perché è una parola che qui non piace, semplicemente sono rimasto basito. Fate voi, per le persone che hanno chiamato. Esultando per la morte di quelle tre persone ignoranti, quelli sono poveri ignoranti. Vabbè, Roberto, e quelle persone hanno detto che c'è, vuoi comandare pure qua? Sto dicendo che se fossero stati i miei figli quei Rom, comunque avrei ammazzato. Cioè, in che senso? E a prescindere, quello che dice Parenzo è giusto fino a un certo punto. Io non ho bisogno, io ho bisogno di difendere il mio. E se non lo posso difendere perché sono fuori, lo difendo dentro. Cioè, che vuol dire? Che tu andresti ad ammazzare chi ha dato fuoco? A dato fuoco. Non puoi ammazzare un bambino, a prescindere. Vabbè, ho capito, ma è la giustizia, che sei una follia questa roba. Ma ti sto dicendo che la legge della strada, intesa come la legge civile, non permette l'omicidio, non permette... E tu sei per la vendetta? Oh. No, funziona così. Ma che vuol dire funziona così? Sei per la vendetta, allora funziona così. Che cazzo vuol dire? Dove funziona così? In Congo funziona così. In carcere Parenzo, in carcere funziona. Ma ho capito, ma il carcere non è il mondo ideale. Cioè, ma te l'ho detto che non siamo in un mondo perfetto. Te l'ho detto, io non ti sto dicendo che sono bravo. Io non so citare quelli che a parte che voi, non è vero che in carcere. Ma non è le citazioni, chi se ne frega delle citazioni. Il carcere è quello. Ma ho capito, ma non è bello. Ma non è bello. Ma non è bello. Io non sono il portatore sano del verbo. Ti sto dicendo solo quello che conosco. Sbagliato, giusto che sia, funziona così. Vabbè. Funziona così. Vabbè. Se poi volete pensarla diversamente. Ma no, ma lo so liberi. Che funziona così. Siete a parte dei liberi che, pensatori. A parte che non è. Quello ma, quello no, che Roberto, volete, scusami, dico, scusami un attimo. Questa è la questo ma lo capisco, lo so benissimo. Prima che me lo dicessi tu, che in carcere ogni tanto funziona così. Ma non è vero, non è che c'è ogni questa. Ogni tanto funziona così. Scusa, fratello, lo devo dire. No, funziona dillo, dillo, dimmelo pure. No, ma non mi offendo mica. Ciao, Roberto. Però ciao, è curioso ciao che te, ti saluto. Però ciao, è curioso che a te, un ex criminale. Mi chiama fratello perché si sente vicino alla radio. Ma è normale, ma sono anche contento che mi chiami fratello. Che me ne frega, signore, professore. No, ma mi dispiace per i due veri fratelli che sono delle persone straordinarie, uno un ottimo regista di grande talento, l'altro una ragazza straordinaria, madre di tanti figli, insomma, una brava persona. Ma che c'entra? Sentire, alzano il telefono, dice, oh, fratello, abbiamo un altro fratello adesso, chi è questo criminale incallito? Allora ragazzi, ieri sera a Matrix c'era una signora, una sudamericana, che va a rompere i coglioni a un'associazione, a quelli che occupano le case. Caro Parenzo, te la voglio fare conoscere. Ma la voglio io non chiamare. Ho interesse a conoscere sì, sta sì, gente. Sì, va a rompere il cazzo, sudamericana, lei immigrata, qua integrata, va a rompere i coglioni a quelli che occupano le case e non dovrebbero stare dentro queste case. Anzi, ti faccio sentire un audio. A un certo punto è entrata in una casa dove c'erano dei Rom. In una casa dove c'erano dei Rom. Una novità. Senti, sembrano le grida di quelle sembra della Lidl. Sì, proprio fissato. Senti, senti, senti, senti. Te ne vai con le buone o te ne vai con le cattive? Dai, cominciate a uscire! Cominciate a uscire! Cominciate a uscire! Cominciate a uscire! Dai! Dai! Dai! Una specie di vendicatrice, chiamiamola subito, Maria si chiama. Ma chi è? Quelle erano, Woman, quelle ma chi erano è le grida dei Rom ma che se è ne andavano dalla casa. Ma chi piace le grida dei Rom? Ma chi è questa Cat Women, Cat Rom? Senti, chi senti, è? Senti, senti. Pronto? Maria? Sì? Buonasera, qui Radio 24, salve. Ah, buonasera, buonasera. Come stai, Maria? Come stai? La voce. Bene, grazie, sto bene, sto bene. Parenzo, ti voglio presentare questa signora, sì, la quale si è specializzata in che cosa, Maria? Cioè, tu vai praticamente a cercare di fare sloggiare coloro che occupano le case, giusto? No, il mio comitato è comitato No Rack No Abusivismo. Sì, d'accordo. Non è che vado io a cercare. Sì, sì. Io, quando sento dei rumori, a parte che noi facciamo le ronde notturne, io e Miriam. Vabbè. Tu e Miriam, come, che vuol dire le ronde notturne? Scusa, spiega. Fate quello che vuole. Per curare le case. Sì, ma dove? Qua, dove abito io ci sono troppe signore anziane di 90, 95, 100 sì, anni sì. E che quando sento un boato gli sale la glicemia, chi che ha paura e tutto perché non abitano certo, e quindi cosa fate? Chiamate la polizia immagino. Chiamiamo subito la polizia. Oh, noi. Questo è bene, lodevole, ottimo. Però io voglio capire una cosa signora, a un certo punto voi fate irruzione anche dove in come alcune irruzione case occupate, o sbaglio? Ho visto delle immagini in cui lei metteva in cui lei era entrava in una casa occupata da alcuni Rom. No, no, non è che entravo. Loro entravano nelle case vuote. Sì. Che questa è stata aperta subito, un paio di secondi che io sono scesa dalla scala perché hanno occupato proprio la scala dove abito io, dove c'è un alloggio preassegnato da una persona che ha detto adesso ci penso, si do l'ok, non do l'ok. Questo alloggio è stato occupato abusivamente. E chi erano al questi qua? Mi sono accorta io del boato, sono scesa con altri vicini, ho dato l'allarme con i vicini che abitano qua e allora non è che io sono andata a buttarli, sono andata a recuperare l'alloggio che è preassegnato e che loro giusto hanno rotto la serratura. Giusto, hanno e questi qua come hanno reagito questi signori Rom? Sono scappati. Sono scappati. Lei non ho capito a che titolo lei fa queste operazioni. Cioè c'è la polizia che deve gestire queste vicende, non un privato cittadino. Ma avevamo già chiamato la polizia, in attesa che arrivasse la polizia. Loro sono scappati perché appena hanno sentito la polizia sono scappati. Sono scappati come conigli, si potrebbe dire. Questo no. Come ladri, come i ladri. Come i ladri, giustamente. Ecco, ma sono molti Rom che occupano le case? Molti rom, anche marocchini, anche italiani. Io sono sudamericano, sono 30 anni che sono qua in Italia. È integrata, mi sembra, no? Non hai permessa di occupare una casa, capito? Mai. Certo. E invece i signori rom, i signori rom invece? Allora, loro lo occupano, i rom hanno questa tecnica, occupano e stanno un mese o 15 giorni, loro dopo lo vendono e se ne vanno in via Giambellino. Se ne vanno. Ma vendono ancora. Che vuol dire vendono? Vendono la presenza? Tra, cioè, tra di loro si vendono, tra di loro. Cioè, vendono l'occupazione, diciamo. L'occupazione, sì. Certo. Vendono, capito, Parenzo, che paraculi questi nomi? Io questi... ho capito che la signora dovrebbe, intanto non ho capito anche, cioè, quel fatto che un ma cittadino... Ma va a rompere le scatole ai rom là, alle persone che occupano. Ma pensasse ai problemi suoi, ma scusi, lasci che sia la polizia, le forze dell'ordine a occuparsi di questioni di ordine pubblico. Ma io non ho capito. Ma scusami. Allora, io capisco quando la persona veramente occupa per necessità. È stato sfrattato. Beh, io non lo capisco manco quello, però comunque si trovano, se le vede la faccia le persone veramente. E invece questi? Ma queste no, queste vanno in giro di qua, vanno in giro di là, rubano e spacciano, e questo non va bene. No, soprattutto rubano i signori rom, signori rom rubano. Certo, qua ti ho detto, è facile. Lei ha paura dei rom, signora, ha paura dei rom? Io ho paura dei rom, no. Perché devo aver paura? Ma che ne so, i rom magari possono essere pericolosi, no? Cioè, o no? Pericoloso, anche io sono pericolosa, con gli spray tranquillamente mi posso difendere. Sì, con lo spray? Certo, ma non sparo. Vabbè, adesso devo fare la domanda per avere la porta di armi, perché se mi infilano qua, dove abito io, sul mio balcone, io li sparo alle gambe, non ammazzo, li sparo alle gambe in attesa alla polizia. Prima chiamo la polizia, le dico venga perché ho sparato un ladro. Brava signora, si armi anche lei, si armi, entri a far parte di noi con Cruciani, Cruciani. Bella compagnia che avete messo in piedi, gente che vuole sparare ovunque, di giorno, di notte. Poi lei ha una voce talmente... Signora, lei ha paura? Sono in difficoltà, signora, perché lei ha una voce talmente anche delicata e gentile, pur dicendo delle cose terribili, che non riesco neanche, come dire, a signora, lei ha paura di prendere in mano una pistola? Io non ho paura. Ecco, mi raccomando, mi raccomando, la cosa è noi con Cruciani. Arrivederci, grazie. Noi con Cruciani. Siamo pronti, David! Siamo pronti! Siamo pronti! Anche la signora sudamericana, noi con Cruciani, si sta formando. Fabrizio da Fermo, Paolo da provincia di Cremona, Tina da Milano, chiediamo, Gianluca da Milano. La baracca, va. Dobbiamo tiriamo chiudere. Giù la Claire. Meglio, dobbiamo chiudere, quel montaggio meglio. Non me lo mettete, quel montaggio non me lo mettete. Domani ti ho fatto una sorpresina! A domani, noi con Cruciani, insieme ai sudamericani integrati che vogliono prendere le pistole in mano e difendersi integrati, contro le occupazioni abusive. A domani ragazzi, ciao. Naturalmente. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo, dica lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.